sia lode al re. Vivo per te, il mio respiro sia costantemente per te. Vivo di te, il mio sguardo sia solo sul re dei re. Vivo in te, la mia vita sia in sacrificio a te. Esistenza sia lode al re. Per te vivo di te, il mio sguardo sia solo sul re. Sacrificio a te, vivo con te, la mia esistenza sia lode al re. Lodatelo per i suoi potenti, lodatelo secondo la sua grandezza, lodatelo col suono della tromba, lodatelo con l'arpa e con la cetra, lodatelo col tamburello e con la danza, lodatelo con strumenti a corda e a fiato, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira lodi l'Eterno. Respira, lodi l'Eterno. Ogni cosa che respira, lodi l'Eterno.